Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buonasera a tutti, eccoci all'appuntamento del sabato in cui riassumiamo le storie della settimana, una settimana in cui con Franco Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia, certo non abbiamo avuto tempo e modo di annoiarci, no? Cosa dite? Dal Milan che subisce la remontada, all'Inter che va vicino alla controremontada con il Tottenham, poi non concretizzata, e poi i sorteggi di Champions che portano la Juventus a Monaco di Baviera per un confronto che sarà difficilissimo e secondo me sarà la prova del 9 della stagione europea della Juventus. Poi nel weekend aspettiamo questa sera la Juventus stessa sul campo di un Bologna lanciatissimo, domani sera l'Inter per un'altra prova del 9, perché adesso si tratta di capire se col Tottenham è stato un fuoco di paglia alimentato anche dall'impossibilità teorica, come l'Inter ha dimostrato, dell'impresa di rimontare lo 0-3 di Londra, oppure c'è qualcosa di nuovo e di vero nell'anima di questa squadra. Ogni opinione è buona. È un weekend in cui ci sarà poi l'esordio della Formula 1 e ne parleremo poi lunedì, ne parleranno domani in Dai e Vai gli amici Gattuso e Ferrentino, c'è una Milano-Sanremo che si corre domani, di domenica, dopo un sacco di anni, una cosa inedita, sarà una Sanremo non banale visto che sarà la prima volta dopo tutto il casino di Armstrong e dopo tutto il casino in cui è stato di nuovo coinvolto il ciclismo. Vabbè, c'è tutto questo, no? Ci sono un sacco di storie da raccontare e da ricordare, però perdonatemi, la più bella della settimana l'ho sentita ieri ai microfoni di Sky dopo il sorteggio della Champions League, quando si stava discutendo di pallone, e allora è spuntato Leonardo che ha parlato di questo accoppiamento con il Barcellona, ma poi in fondo, ma chi se ne frega di Messi, ma chi se ne frega del Camp Nou, chi se ne frega di questa squadra che sembra insuperabile quando ci sono altre cose nella vita. Leo, io un'ultima domanda, poi so che ti dobbiamo lasciare andare, quelle più o meno cattive aspettano. Ma Anna non mi fa domande? No, io evito. Ah, non lo so. Allora ti faccio una io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo questo. Grande Leo! Mi ha detto di no. Mi ha detto di no due volte. Grande, due Leo! Volte mi deve dire di sì adesso. Questa è una carambata, cioè, terribile. Cioè, mi deve rispondere, eh? No, io sono a casa, queste cose a casa. Alessandro, stavi dicendo? Niente. Comunque no. Aspetto la risposta, basta dire di sì, basta, non è così difficile. Aspetta, ma non so se... Non se ne va finché non risponde. Adesso? Ne parliamo a casa. Mi sembra serio, eh? Caramba, che sorpresa. Va bene. No, molto serio, Billy, molto serio. Va bene. No, appunto. Va bene. Grazie. Va bene cosa? Grazie. Va bene cosa? Va bene, sì. Va bene, vuol dire sì. Studio, oh. Hai visto, sì. No. Benissimo. Molto innamorato da tanto tempo, prima o poi doveva arrivare. No, sì, sarà una cosa. Grazie, grazie. Non hai idea. Già che abbiamo preso e Barcellona, ci sposiamo, dai. Dai, una grande festa proprio. Va bene. Grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Ciao. Ciao. Allora è sì, eh. A Milano in Brasile, due volte facciamo. Vabbè, ciao. Va bene. Un attimo di pausa magari adesso. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Sì, sì, no, c'è dopo pubblicità. C'è il sorteggio d'Europa. Vabbè ragazzi, sarò sentimentale o forse esattamente l'opposto, però queste cose mi fanno impazzire. C'è chi può dire una carrambata, c'è chi può dire qualcosa di eccessivo, di cattivo gusto, una paglia, ma a me è piaciuto da morire. Sarà perché sono romantico o forse l'esatto contrario, ripeto. Torno a parlare di fatti della settimana e di ospiti con cui abbiamo chiacchierato in settimana, ripeto, ma inutile ripetere, è stata la settimana della grande sofferenza del Milan che ha subito Messi, che ha subito la remontada, e allora ne abbiamo parlato con un ex rossonero di tanti anni fa, un allenatore del presente, Walter Novellino. Ciao, ciao, ciao. Dov'era il Milan ieri sera? Perché va bene il Barcellona, ma mi è sembrato ancora più grande di quanto già grande non sia. Io non ho visto il Milan, Ma

Sì, no. Sì, possa essere una buona, una buona idea, una buona... Esatto. Infine Filippo, la corsa al secondo posto adesso ricomincia, c'è chi dice beh, il Milan adesso può concentrarsi su quello e conquistare l'obiettivo che il Milan vuole, l'Inter vediamo cosa succede stasera, vediamo cosa succede domenica con la Sampdoria, ma mi sembra tutto in alto mare. Il Napoli, c'è stato il messaggio pontificio, visto che siamo nei giorni di De Laurentiis, c'è anche la Fiorentina, mi sembra grosso modo che siano queste. Non metto la Lazio e non me la dimentico, che sta facendo una grande stagione, ma se va avanti in Europa dubito che possa correre fino alla fine. Sì, forse per la Lazio è difficile avere quella continuità, rimanere in Europa anche in campionato. Sarà importante avere continuità, come dicevo, perché comunque bisognerà lottare anche se su un solo fronte, però essere davvero concentrati, pronti già subito. Io parlo del Milan, ovviamente domenica è una partita delicata che viene dopo questa sconfitta e i ragazzi dovranno essere bravi a, insomma, a farsi scivolare addosso un po' quelle che possono essere tossine anche dal punto di vista mentale, nervoso, che possono essere rimaste addosso quando si perde una partita così. Quindi sarà fondamentale ripartire subito col piede giusto, ma insomma io sono convinto che i ragazzi, che la squadra, che mister Allegri e tutti insomma riusciranno a farci. Domani a quest'ora l'avremo già scoperto se il Milan sarà stato in grado di ripartire con il piede giusto, con un Palermo che si gioca le ultimissime carte per la salvezza a San Siro dopo aver cambiato un miliardo di allenatori, come sapete, l'ultimo dei quali in settimana. Dunque, poi abbiamo fatto tante chiacchiere con Filippo Galli su ipotizzando sorteggi alla fine per la Juventus, Bayern Monaco è stato, e per la Lazio, meravigliosa devo dire, la Lazio non finisce di stupirmi. Faccio un grande tifo soprattutto per il modo in cui ha affrontato questa, per le italiane, incomprensibilmente negletta Europa League. Giocherà contro il Fenerbahce. Petkovic ha avvertito: attenzione con lo Young Boys, l'ho già battuto, l'ho già buttato fuori una volta. Adesso però parliamo un po' della settimana dell'Inter, perché anche questa è stata, beh, dal mio punto di vista molto divertente, magari dal punto di vista dei tifosi nerazzurri, quelli duri e puri, è stata una settimana di enorme sofferenza, come per i tifosi del Milan. Una settimana in cui si è un sacco chiacchierato, un sacco polemizzato, in cui si è detto beh, per Stramaccioni è l'ultima spiaggia, la partita con il Tottenham, se andrà in rovina come era ipotizzabile, cosa che poi non è successa, se perderà contro la Sampdoria e contro il suo futuro Icardi. Per il momento è tornato il sole, sebbene temporaneo, è tornata la fiducia all'Inter, è tornata il buon umore credo anche a casa di Cassano, che tra l'altro è stato il simbolo di questa partita con il Tottenham, così incredibile, così inimmaginabile, così pazza. Cassano contento anche perché si becca altri 200.000 euro da Moratti, bonus previsto per l'11° gol stagionale, cosa che ha realizzato contro gli inglesi appunto. Però una settimana in cui ho detto si è anche insomma polemizzato intorno a parole che Chivo aveva pronunciato. Chivo che ha giocato benissimo peraltro nel Tottenham così come tutti gli altri, però aveva detto quest'Inter non ha gioco. È giusto che in un momento così difficile sono tutti arrabbiati perché i risultati non arrivano, ma quello che preoccupa penso ancora di più è il gioco che non c'è per ora. E dal primo all'ultimo dobbiamo dare di più, giocare con più coraggio, perché penso che ci manca anche questo. Io giuro che non so come possa finire domani sera a Marassi contro la Sampdoria, contro il futuro dell'Inter che sarà Icardi. Questa squadra resta comunque per me e per tutti quanti impossibile da leggere, e non so nemmeno quanto possa essere una cartina al tornasole la partita giocata l'altra sera contro gli inglesi, perché è una partita in cui nulla c'era da perdere. Domani sera c'è in palio tantissimo per i nerazzurri. E non credo possa valere l'alibi dei 120 minuti in Europa League. Comunque, torniamo alla settimana nerazzurra. Allora, Chivu dice queste parole il mercoledì. Il giovedì, ovviamente, chi si presenta in conferenza stampa prima del Tottenham accanto a Stramaccioni? Lo stesso Chivu che prova a correggere il tiro, cosa un po' difficile da fare. Parla poi l'allenatore dell'Inter, che insomma qualche dubbio probabilmente, al di là delle parole, in testa ce l'ha. Dentro di me so che sarò giudicato per quello che faremo alla fine di queste 10 partite. Il presidente è arrabbiato giustamente con tutti, ma lo siamo anche noi. Cioè non c'è in questo una differenza di pareri. Credo che quello che il mio lavoro sarà giudicato a fine stagione, però questo è tu mi hai chiesto una mia sensazione. Poi magari mi caccia dopo la Sampdoria, però quelle sono decisioni sue. Allora, poi me caccia dopo la Sampdoria, lo vedremo. Intanto l'Inter sembra, insomma, io credo che tifare Inter sia un po' come andare sulle montagne russe, un giorno su, l'altro giù. Ovviamente dopo la partita con il Tottenham era il giorno della ascesa anche per Massimo Moratti. Beh, ovvio, cioè molto fieri, molto, molto contenti di questa buona prova della società, della squadra. E niente, adesso che sia il buon auspicio per il futuro tutto questo. Prima della partita aveva già confermato la fiducia di Stramaccioni, a maggior ragione dopo la partita è ancora più salda, anche perché è sembrato che la squadra stia con l'allenatore. Sì, mi sembra di sì. Sì, ma ogni partita però questo è il tema, avremo molto da parlare. Bisogna fare un'altra prestazione come anche in campionato, perché è importante arrivare al terzo posto. No, c'è perfettamente ragione, infatti la cosa negativa di ieri sera può essere i tempi, possono essere i tempi supplementari, anche se nell'insieme psicologicamente, moralmente il tutto è positivo. Poi dopo fisicamente è importante che ci sia ancora la forza di far bene la partita di domenica. Quindi Moratti dice inutile ogni partita fare questi discorsi, tanto domani sera Sampdoria Inter e poi vediamo. Tutti convocati Magazine. Dunque torniamo, il Vegio Trapattoni aveva già immaginato tutto, no? Aveva già immaginato secondo me questo sorteggio tra la Juventus e il Bayern di Monaco, tanto che a modo suo ne aveva parlato ai microfoni di Mediaset con Jupp Heynckes, attuale allenatore del Bayern, che secondo me darebbe un braccio, come ho già detto ieri, per consegnare a Guardiola una squadra con la coppa dalle grandi orecchie da difendere. Ma sentiamo il trap. No, Jupp, the Frage is best should be better than to no spielen gegen Juventus. I think al finale tu musst spielen the same mentalità, the same condizioni the physical, no? Yeah. Rimaniamo a Mediaset. Ciao Massimo Callegari. Ciao, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Come stai? Bene, però... Non ti ho sentito. Settimanone. Settimanone, altro che... ma ti ha fatto... Dimmi la verità, ma ti ha fatto più ridere il trap con questa domanda ad Heynckes o Leonardo con un altro tipo di domanda ad Anna Billò? So che andiamo dalla concorrenza Sky, però a me... Insomma, quel siparietto, mi vuoi sposare in diretta? Ha fatto volere. Poi c'è chi dice che lui abbia tradito Berlusconi, abbia tradito Moratti, però forse agli occhi del pubblico femminile, anche interista e milanista, con questa si è riscattato. Con questa sì, ha fatto una conquista generale, nazionale, si è ripreso tutti i complimenti che non gli avevano dato in questi anni da allenatore, dirigente. No, beh, questa è una cosa seria, ma fatto più sorridere il trap, questa è una cosa veramente seria, quindi sì. Va trattata come tale, poi insomma, anche lei è un po' accusato, visto. Io non la conosco personalmente, quindi insomma mi fa solo piacere. Che... Sì. Poi no, io non lo so se sono, come dicevo all'inizio, se sono il primo dei romantici o l'ultimo, o il primo degli antiromantici, quindi a me questa cosa ha fatto morire da ridere. Probabilmente è vero la seconda. Il romantico, sì, anche secondo me è rimasto poco. Massimo, invece, a proposito di romanticismo, quel gol di Messi che ha cominciato a piantare i chiodi nella croce del Milan, io è tutta la settimana che lo ripeto, voglio sentire anche la tua. Grande Barça, questo è vero, però dal Milan mi aspettavo un approccio diverso alla partita sul piano difensivo. Ma io no, nel senso che... Purtroppo il nostro campionato ci annebbia un po' la vista e ci dà dei parametri che non sono sempre adeguati. Il Milan ha fatto un grande recupero nell'ultimo periodo in campionato, però comunque qualche difficoltà c'era stata e la partita con la Lazio era stata comunque condizionata dalla decisione iniziale dell'espulsione di Candreva. Le squadre che hanno battuto il Barcellona o hanno provato a farlo nell'ultimo periodo hanno giocato tutte dietro compatte con centrocampo di difesa vicine sperando di sfruttare le poche occasioni che hanno avuto. Il Milan un'occasione l'ha avuta, non l'ha sfruttata, è finita lì. Però non sono rimasto sorpreso dall'atteggiamento del Milan né dal suo rendimento, ma un po' sì dalla trasformazione del Barcellona rispetto a San Siro e rispetto alle partite con il Real Madrid delle ultime settimane. Sì, strano anche come sia possibile così d'improvviso anche ritrovare, cioè strano, non lo so, magari era calcolato, era previsto ritrovare una forma fisica di questo tipo. Però senza andare troppo nelle dietrologie, Massimo, guardiamo al futuro. So che hai scritto, che hai bloggato che il Bayern di Monaco, prossimo avversario della Juventus, è la squadra più ossessionata dalla Champions League dopo Mourinho. Secondo me Mourinho è il grande favorito e dichiaro pubblicamente che, Juventus a parte, farò il tifo per il Real Madrid in questo prosieguo di Champions League, tanto mi importa nulla. Non avevo dubbi. Di espormi, tanto mi, insomma, come dico, come ho detto ieri all'ascoltatore, sparate pure sul pianista, che mi importa. Però è vero che il Bayern ha questa ossessione? Sì, sì, beh, l'ossessione più che Mourinho ce l'ha il Real Madrid, nello specifico come ambiente, con questa decima, come la chiamano loro, questa decima coppa che seguono dal 2002, che non hanno vinto e raramente hanno anche avvicinato, forse l'anno scorso è stato il momento più in cui hanno avvicinato di più, poi ci sono state le semifinali nel 2003, però il Bayern ha questo tipo di approccio, di atteggiamento, ha perso due finali negli ultimi anni in maniera completamente diversa e con due squadre completamente diverse, perché quella dell'anno scorso era molto più forte, completa e fresca rispetto a quella che ha perso dall'Inter nel 2010, veramente senza sminuire il valore dell'impresa dell'Inter, però il modo in cui hanno perso l'anno scorso, il modo in cui hanno affrontato la finale con il rigore sbagliato da Robben nei supplementari, l'hanno perso i rigori dopo averla dominata, mi ha colpito e mi ha colpito ancora di più il modo in cui hanno sofferto contro l'Arsenal, pur rimanendo insomma con un vantaggio rassicurante, perché l'Arsenal ha segnato il secondo dei tre gol che doveva segnare a 5 minuti alla fine. Però si avverte questa sensazione, questa difficoltà che hanno nel completare l'opera, ed è strano perché è una squadra che dal punto di vista tecnico del gioco organizzativo dovrebbe avere tutte le sicurezze. E in più ho aggiunto c'è anche l'ossessione degli italiani, la paura degli italiani e degli italiani, perché loro non ci capiscono e non riescono mai a prenderci né con le nazionali né con i club ultimamente. Senti Massimo Callegari, Barcellona, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, che sembra la squadra del destino, anche un gran culo perché ha preso il Malaga in questo quarto di finale, Real Madrid, Galatasaray, secondo te può uscire una sorpresa da questi tre confronti o sarà come pare ovvio, e nel calcio di ovvio non c'è niente, Barcellona, Borussia e Real? Credo che la sorpresa, se può uscire, potrebbe uscire proprio da Borussia Malaga, nel senso che vedo il Barcellona più organizzato e più completo rispetto a Paris Saint-Germain. Ibra sono di fronte ancora una volta a questo suo ostacolo finora insormontabile dei quarti, peraltro contro il Barça, che lui ha sempre sofferto. Magari però poi ce la fa, hai visto mai? Chissà, potrebbe anche essere. A cacciar via lo scimmione dalla Spagna. Il Real è super favorito con Galatasaray. Il Malaga dal punto di vista difensivo è una squadra molto organizzata, molto attenta, e potrebbe essere l'eventuale sorpresone. Per chiudere, io darei un'occhiata dal buco della serratura, Massimo, visto che è quasi ora a questa giornata di campionato, che secondo me è un turno chiave, cioè, questa è la mia impressione, poi le mie impressioni sono quasi sempre sbagliate, però il Napoli, dopo la visita pastorale di De Laurentiis, che ha detto ci giochiamo un campionato in 10 partite, il Milan dopo l'eliminazione, si tratta di vedere quanto è rimasto nella testa soprattutto dei giocatori quella notte di Barcellona, l'Inter e i suoi interismi che abbiamo visto e sofferto in settimana con il Tottenham, mi sembra una giornata, non ti dico decisiva perché mancano troppe partite, però importante anche, dal dici? Secondo te è decisiva? Sì, forse dal punto sì. di vista emotivo? Dal punto di vista emotivo sì, anche per le avversarie che affrontano queste squadre, perché l'Atalanta ha pochissimo da perdere col Napoli, il Milan affronta il Palermo che ha l'ultimissima opportunità e comunque c'è un nuovo allenatore, chissà che comunque qualcosa, almeno se la partita va inizialmente in un certo modo, non gliela possa trasferire. L'Inter affronta una squadra in questo momento insidiosissima come la Samp, e poi non trascurerei Fiorentina Genoa che è un'altra partita chiave in questo momento. La Fiorentina fra tutte è quella che può mettere più in difficoltà il Milan per il terzo posto in questo momento, a oggi, in attesa del turno del weekend e dei prossimi sviluppi. Quindi è un turno veramente decisivo sia dal punto di vista emotivo e tutto, anche perché l'Inter è vero ha fatto una grandissima partita, Morata ci è mancato poco, la squadra con l'allenatore, ma se poi a Genova arriva un risultato non pieno, siamo da capo. Grazie Massimo. Grazie a voi, buon weekend. Buon lavoro a Mediaset Premium, il nostro amico Massimo Callegari. Allora, ci fermiamo un attimo e poi arriva uno dei miei momenti preferiti, che è quello in cui potrò riascoltare voi e la classifica delle migliori voci dei nostri ascoltatori in settimana. Poi arriva anche un altro amico che ci sta aspettando, perché c'è un'altra storia che abbiamo seguito a lungo, che è quella dello sceicco in similoro di Roma, e ci sono guai, grossi guai probabilmente in vista per lo sport senese. Tutti convocati Magazine. A quel mio amico napoletano e tifoso del Napoli, di Marco Beninazzo, che mi ha raggiunto dal piano di sopra, cioè dal Sole 24 Ore, dove le persone contano. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Voglio far sentire invece, prima di parlare delle nostre cose, la top 3 dei nostri ascoltatori settimanali, a cominciare dal tifo milanista. Enzo Pescara, buongiorno. Pronto, Enzo ancora, buongiorno. Mi scrivono Pescara, dico Pescara, ancora meglio. Sono Juventino, ma stasera tifo Mila. Ah, quindi... Perché sono italiano. Bravo Enzo, quindi, quindi non fa parte dei gufi. No, io penso che il Milan può perdere anche 2-1, perché un gol come segna. Facciamo la firma con il sangue, subito, caro Enzo. Ok. Piaciuto? Beh, cioè, quasi preso, insomma. Cioè, quasi preso. Però c'è anche un interista gufo. A me piacciono i gufi, perché ci stanno nel calcio. Beh, basta gufare. Dichiarare di esserlo e gufizzare con stile, con un minimo di stile. Con eleganza, sentiamo. Roberto da Verona, buongiorno. Buongiorno, convocato Roberto. Convocato Roberto, gufo o non gufo? Gufo, gufissimo. Grande. No, prima ho sentito Mourinho e dopo purtroppo faccio una chiosa sulla mancanza, ricordo, di chi era stato espulso in quella giornata storica per noi interisti. Sì. Ecco, questa sera naturalmente noi interisti abbiamo solo un tifo per il Barcellona. Anche solo... se per affinità saremo più vicini al Real, diciamo. Sì, solo un tifo che per il Barcellona, lo capisco, però in casa vostra una tristezza infinita, me lo permetti? Lo so, però sentendo Mourinho prima, passando di un altro argomento... Ragazzi, ma vivere di ricordi, ricordi il sepo mica, tutte le volte, capisco, però... Ma la questione è la motivazione, secondo me, perché anche il Milan, è lo stesso Milan che anche lui ha perso, mi pare, in casa col Bologna a inizio campionato. Sì, e dopo 8 partite era terzultimo, 7 partite esatto. Era terzultimo, e adesso, Mourinho, adesso è davanti all'Inter. Il motivatore Mourinho, quando dicevano che Mourinho è solo un motivatore, ben venga. No, non è solo un motivatore, è un grande allenatore, infatti la lezione di tattica vale anche oggi contro questo Barcellona. Allora, Mourinho, grande motivatore, grande allenatore, Marco? Beh, tutti e due, dai, diciamo che è un esempio ormai molto imitato e malamente imitato anche in Italia, direi. di un allenatore come magari dire. Anche dal tuo allenatore, no, non faccio riferimenti a questioni, allora come, stai parlando di Stramaccioni, a questioni di cuore, come dire, stai parlando di Stramaccioni, lo so. Beh, Stramaccioni tenta di essere tende ad essere Mourinho, tenta di essere Mourinho, diciamo che in alcune partite ci riesce, in altre meno, però è giovane e si farà, e si farà. Allora, dato che è la settimana giusta, saliamo molto molto molto in alto, non così in alto, però molto in alto. Allora, numero uno, Suor Giovanna. Intanto io ho un ospite che mi premeva sentire, che ieri ha cercato di intervenire per darci un pronostico. Oggi invece sentiamo la lettura da partita di Suor Giovanna da Padova. Buongiorno, Suor Giovanna. Buongiorno, grazie per avermi chiamata. Ma ci mancherebbe, grazie a lei, è convocata quando vuole. Che segnassero un gol. Lo speravamo. Qual era il suo pronostico ieri che voleva fare? 1-2 per loro. 1-2 per loro, sarebbe stato bello. E mi spiace come è andata, perché non hanno corso, secondo me, e la difesa poteva fare qualcosa in più. Bravissima. Anche, però penso anche che sono squadra, sì, ma che hanno bisogno di crescere ancora, perché è stata tanto rinnovata la squadra. Sì, questo è vero, però potevano correre di più. Qualcosa di più si poteva fare, insomma. Sì, sì. Io seguo il Milan da quando avevo 5 anni. Sì. E sono milanista, prima la fede cattolica, poi quella milanista. La fumata bianca quando la vediamo? Forse domani. Poi la fumata bianca è arrivata quella sera stessa, con l'elezione del nuovo Papa. Beh, sulle previsioni era un po' scarsa, ma devo dire, come analisi tattica della partita è stata impeccabile, quindi insomma. Marco Merinazzo, non tergiversiamo, a me già manca. Manca lui, manca lo sceicco, ma ne spunterà qualcun altro, vedrai. Noi siamo un paese che attira questi personaggi. Già, comici. E ti dirò che il problema non è tanto di quelli che in qualche modo poi vengono scoperti, ma di quelli che riescono a entrare nelle società e che poi tanta chiarezza sul loro reale impegno non è che la facciano, insomma. E resterei appunto nella capitale, perché ora dello sceicco si è detto e raccontato tutto. Io stesso, non per autocitarmi, ma insomma qualche giorno dopo che la Roma ha dato l'annuncio, perché è stato imposto dalla Consob, ho fatto una cosa molto semplice che gli americani o la stessa Unicredit poteva fare, cioè fare una visura camerale, guardare alle partecipazioni societarie di un uomo che si era impegnato a versare quasi 50 milioni. Ebbene, da queste visure camerali emergeva che in Italia, visto che in Italia è il suo centro di interessi, lo sceicco aveva 3 partecipazioni, quindi partecipazioni in 3 società, per l'ammontare in una cifra straordinaria, circa poco meno di 70.000 euro. Ora, questo non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla rispetto alla possibilità che magari ci fossero, non so, proprietà estere, piuttosto che magari fosse lui il portavoce di una compagine di investitori più ampia, ma di fatto quello era già un segnale che nell'immediatezza, ma forse anche prima di far firmare un contratto preliminare a un personaggio di questo tipo, si poteva pretendere da una società quotata in borsa e seria, cioè, come la Roma è, e dovrebbe essere. Scattata l'indagine per aggiottaggio. Evidentemente, ma come dicevo, secondo me è il momento in cui anche gli attuali proprietari della Roma, e parlo degli americani e di Unicredit, dovrebbero fare chiarezza. In particolare Unicredit ha fatto questa operazione importante, secondo me, che poteva lasciar prevedere un futuro diverso per la Magica, e cioè il fatto di acquisire una partecipazione di una cordata americana, quindi aprire il mercato anche del marketing e del merchandising. L'accordo con la Nike per i prossimi 10 anni mi sembra... Altra bella storia quella lì. Mi sembra abbastanza buono, però appunto anche lì il fatto che parta tra un anno, non si capisce bene qual è la reale entità dell'ingaggio della Roma da parte di Nike. Se fossero 4-5 milioni all'anno sarebbe davvero poco rispetto ad altri contratti fatti con società simili. Ma ripeto, se poi si vanno a guardare i conti, è quello che poi interessa a me, ma credo poi a tutti quelli che tengono al futuro della Roma, si capisce come Unicredit, che finanziava i sensi ed aveva 300-400 milioni insomma di crediti, ha intrapreso un'altra strada, ma si ritrova in questo momento ad avere essere creditrice per altri 100 milioni nei confronti della Roma. E la reale, ripeto, entità dell'investimento fatto dagli americani, dai bilanci non è che si capisca tanto. A parole la Roma dovrà essere la squadra più importante del mondo nei prossimi anni, ma nei fatti mi sembra che il sostegno finanziario poi sia per il momento scarso, ma bisogna mi viene, attendere. Quando parliamo di queste cose, non parliamo di queste cose perché altrimenti appunto mi viene sempre in mente Lotito che dice dare soldi vedere cammello, non so perché. Senti Marco, io ti do appuntamento in settimana perché io voglio approfondire questo discorso sulla Roma, ma vorrei approfondire con te anche in una settimana in cui tra l'altro poi non insomma il campionato sarà fermo, quindi sarà il momento dei ragionamenti. Vorrei approfondire anche il discorso senese, perché ci sono Siena Calcio e Montepaschi Siena, che tu ben prima di questi plichi anonimi hai scoperto essere avere dei conti forse in sospeso o dei conti non troppo in ordine. Assolutamente, approfondiremo questo, magari potremo parlare anche dei cinesi che dovevano arrivare all'Inter. Ci sono tante storie di quello che per esempio il Paris Saint-Germain sta cercando di fare per aggirare il fair play finanziario, e vedremo se Platini glielo consentirà. Allora, in settimana sceicco, arabi, conti taroccati, cinesi e cineserie varie in tutti i convocati. Io ringrazio Marco Bellinazzo, grazie Marco, alla prossima. Allora, appuntamento in settimana, segnalo sull'agenda. Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, buona serata e buon weekend a tutti. Vi ricordo domani Dai e Vai con il duo Gattuso-Ferentino su questi schermi 16.30, 19 e 22.23. Ciao a tutti. Tutti convocati.